3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dell'Incredulo dalla vostra apprendista stregona Elisa, che come ogni volta vi unisce la parte, diciamo, un pochino più così magica a quella un pochino più scientifica e terrena, e che piano piano cerca di coinvolgere e limare qualche angolo un po' rigido del povero Giorgio il Popolano. Ciao Giorgio, buongiorno. Ma ti rendi conto cosa mi tocca sentire? E le carte, e l'energia, e la bacchetta magica, incredibile! Viviamo in un mondo di computer, viviamo in un mondo di scienziati, viviamo in un mondo di dottori, che basta uno che vada su Google, si fa bella la diagnosi e questi mi vengono a tirare fuori manoscritti, robaccia vecchia di migliaia di anni, scritta da sciroccati che non ne sapevano niente. Altro che i nostri scienziati. Comunque si cerca di tenere una porta aperta. Hai visto mai che questi sballati qualche cosa di giusto ce l'abbiano? Però finalmente oggi parleremo di qualcosa di concreto, niente di roba spirituale. Infatti parleremo di... Dei chakra, continuiamo il nostro percorso con dei chakra. Ok, d'accordo, abbiamo da finire, c'è da mandare giù anche questa pillola. Allora, abbiamo parlato del primo e del secondo chakra, quindi ora si sale più su, passando al terzo. Si sale più su, piano piano la scalata verso la vetta arriverà in fondo. Terzo chakra, Manipura o chakra del plesso solare, quindi è posizionato sotto la chiusura delle costole o coste, come meglio si dice, quindi metà superiore del ventre. Il colore che lo caratterizza è il giallo. La pietra indicata per riequilibrare questo chakra è la calcite, appunto di colore giallo. Il significato è la capacità di agire energicamente, la volontà, l'autostima e l'autonomia personale. In senso spirituale è l'essenza attiva di cui tutti siamo stati dotati. Quindi è la nostra parte, diciamo, un pochino più creativa, quindi che ci aiuta a esprimere i nostri desideri e i nostri sogni e ci aiuta anche a perseguire i nostri progetti. Se ti ricordi bene, è uno scalare, no? Dalla parte, diciamo, di bisogni primari, anche Erano la i primi piramide, chakra, no? esatto, la piramide di Maslow. Per arrivare in cima, per prima cosa devi soddisfare i bisogni primari, che sono appunto la sopravvivenza, l'alimentazione, la riproduzione in senso biologico, per poi arrivare al secondo. Diciamo che una volta soddisfatti i primi, hai il piacere e la gioia di vivere, quindi anche una sessualità un pochino più piacevole. Il terzo è proprio, quindi si cresce ancora di più, te pensi ai tuoi progetti e a come realizzarli nel migliore modo possibile, i tuoi sogni, quindi quello che vorresti diventare, ma anche quello che te esprimi nel mondo, quindi come le persone ti vedono in questo mondo. Quindi questo chakra serve a coloro, cioè averlo attivo serve a coloro che in qualche modo stanno intraprendendo dei progetti. Quindi, che ne so, il giovane laureato che decide di aprire il suo studio, oppure il ragazzo che decide di partire per un lungo viaggio alla scoperta. Questo è il chakra di questo tipo di attività. Diciamo che sarebbe bene che fosse attivo sempre, nel senso che ognuno di noi in ogni fase della vita ha dei desideri e delle voglie di fare, quindi, e deve anche avere la capacità di agire oltre alla voglia e deve sempre avere un'autostima, perché in ogni fase della vita, qualsiasi essa sia, dobbiamo essere sempre, avere grossa fiducia in noi per affrontare qualsiasi cosa. quindi riguarda in particolar modo sì quella fascia di età lì, però in ogni fase della vita un terzo chakra equilibrato ci aiuta sempre a avere volontà di fare, di intraprendere qualsiasi cosa, che sia da un'operazione a cambio lavoro, cambio casa, a mi rimetto in gioco. Quindi è particolarmente forte, diciamo così, nell'età in cui si cominciano a fare delle scelte di vita, però scelte di vita le si fanno praticamente tutti i giorni e praticamente a ogni ora, e proprio questo chakra sovrintende a questo tipo di aspetto, a questo aspetto della vita. Esatto, esatto. Come si aiuta questo chakra? Prima di tutto con accettare il rischio, quindi rendersi conto che nella nostra vita ogni giorno noi dobbiamo in qualche modo rischiare, anche solo attraversando la strada e rischiando di essere messi sotto da una macchina. Che è un rischio molto alto! Esatto. Poi, in particolare a Firenze. Sì. Che uno non sa, i motorini entrano, escano, arrivano da sopra e da sotto. Sì, è un rischio. Quindi ogni volta che si attraversa la strada a Firenze il chakra pompa. Io ti dico che sto rischiando più di essere messa sotto dagli autobus che non si fermano alle strisce quando si attraversano col cane la mattina. E in questo periodo è molto forte questo rischio. Allora mani pura tutta la vita. Esatto. Altri modi per curarlo è sicuramente avere un radicamento profondo, quindi lavorare sui primi due chakra. Se i primi due chakra non sono equilibrati, difficilmente avremo un terzo chakra che funziona bene. E poi esercizio fisico vigoroso, quindi corsa, aerobica, arti marziali. E a livello di altri tipi di attività si può fare un'attività di psicoterapia che aiuti a rafforzare la volontà e incoraggiare l'autostima e l'autonomia. Elisa, come si fa a accorgersi che abbiamo il manipura basso? Io non saprei come definirlo, se fosse un telefonino. Come si fa a capire quali sono i sintomi, ecco? Si vede tanto in quelle persone che difficilmente prendono delle scelte nella vita, quindi che non hanno il coraggio di cambiare la propria vita, che sanno benissimo che c'è qualcosa che non va, ma sono completamente bloccati, e possono essere bloccati uno perché non hanno forza di volontà, ma anche dal fatto che non hanno autostima, quindi non credono di farcela, e quindi te ne accorgi tanto da questo, che sono comunque persone molto valide, molto intelligenti, che potrebbero spaccare il mondo, ma che per qualche cosa hanno un blocco lì. Per cui non conosco riesco... tanti. Sì, è tipico di questo mondo. Tipico di questo mondo, e diciamo ci si porta anche tanto dietro da una famiglia che poco ti ha incoraggiato quando eri giovane. Sì, se ti hanno sempre tenuto sotto una campana di vetro, che ti hanno fatto fare pochissime esperienze tue, anche solo battere una boccata perché con la bicicletta, ci sta che tu cresca con una forte mancanza di fiducia in te, e quindi che sei molto titubante nell'affrontare le situazioni. Era il chakra del dottor Spock, il famoso pedagogo degli anni 70, che diceva: se vedi tuo figlio che cade dalla sedia, tappati gli occhi e fagli battere la testa. Pensate, il dottor Spock è stato tanto criticato, ma alla fine, più o meno negli anni 70, quelle famiglie che leggevano un poco di più educavano i figli con il suo metodo. E ci sono coadiuvanti di altra natura? Allora, ci hai già detto la pietra, che è la calcite, ma per esempio ci sono fiori di Bach o una di questi tipi di erboterapia o roba del genere che in qualche modo aiutano questo chakra? Allora, ci sono dei bellissimi fiori di cui ti parlerò poi in una puntata dedicata. Finalmente i fiori della marijuana! Ah, parliamone, basta! Se vuoi faremo anche una puntata sulla marijuana terapeutica, prima poi ci arrestano tutti. Però sono i fiori dell'Himalaya. I fiori himalayani, esiste proprio un set che è stato creato appunto da questo scopritore che era australiano addirittura, che dall'Australia si è spostato, ha fatto un viaggio in Himalaya bellissimo e ha creato un set di fiori che vanno a lavorare sui chakra. Quindi dal primo al settimo, e più c'è un ottavo fiore in questo set che è un catalizzatore, quindi un accelerante per far sì che funzionino meglio i vari fiori. Sono fiori molto molto particolari, io ti dico, li sto provando su di me ora perché come sempre io devo testare prima di consigliare ai clienti, quindi ti dirò poi quando faremo la puntata se sono sopravvissuta, che effetti mi hanno dato e se davvero funzionano sul riequilibrio dei chakra. Pensate, pure i fiori dell'Himalaya ti prendi, e prendendo l'ascensore e salendo ancora più in alto, oppure montando sulle spalle di uno sherpa, visto che siamo in tema di Himalaya, che cosa si trova? Quale altro chakra si trova? Andiamo sul quarto chakra, che è il chakra del cuore. Il chakra del cuore è, diciamo, la connessione fra i chakra bassi, quindi quelli più terreni, e invece i chakra un pochino più spirituali che vanno verso l'alto. Il quarto chakra si chiama Anahata, è posizionato appunto sulla parte del cuore, il suo colore è il verde, però attenzione attenzione, le pietre sono due, di due colori diversi, sono principalmente l'avventurina che è verde e il quarzo rosa che è appunto rosa come dice il nome. Questo perché all'interno del chakra del cuore sono contenuti due aspetti, la parte maschile e la parte femminile, lo yin e lo yang della medicina cinese, insomma siamo sempre stanno su queste nel cose cuore che... stanno nel cuore. La parte maschile è la parte un pochino più egoistica, quindi è quella che si vuole bene, quindi all'interno del chakra del cuore rappresenta il volersi bene, quindi il fare qualcosa per noi stessi, per gratificare il nostro cuore. La parte rosa è la parte femminile ed è invece la parte di amore verso gli esseri viventi. Tutte e due stanno all'interno di questo chakra. Quindi, come vi ho detto, il chakra del cuore è la capacità di amare, provare quindi un sentimento che non parte appunto dalla mente, e quindi sentire col cuore, tutte queste frasi che ci vengono dalle filosofie orientali, e occorre che il cuore e la testa sono in stretta relazione, quindi proprio anche nei trattamenti Reiki si cerca spesso di riequilibrare il sentire del cuore al sentire della testa, perché questi due devono essere sempre allineati per farci proseguire e fare qualcosa nel giusto modo. Elisa, ma tipo una coppia di coniugi che è sull'orlo del divorzio, per essere molto spicciolo, questi avrebbero il chakra del cuore basso? Potrebbero sicuramente in qualche modo averlo chiuso per n motivi, che possono essere da tradimenti, da incompatibilità che si formano con l'andare avanti, quindi che uno è andato in una certa direzione e l'altro nell'altra. E capita spesso, il chakra del cuore chiuso avviene tantissimo per dei traumi proprio a livello affettivo che ti possono capitare. Quindi il famoso cuore di pietra in realtà esiste, almeno sotto questo aspetto, definiamolo più mistico, spirituale. Esatto, esiste e ti fa smettere di sentire proprio col cuore, quindi diventi è come se poi tra l'altro mancasse il collegamento fra la parte dei chakra bassi e quella degli altri, quindi sei un po' rovinato, sì. Come lo si aiuta questo chakra allora, Elisa, per tentare di ritrasformarlo da pietra in muscolo? Con esercizi di respirazione profonda, come la pranayama, quindi la respirazione yoga. Esercizi con le braccia, compiendo quindi il gesto di dare e ricevere, perché come vi dicevo, no, è il cuore il chakra del cuore, la parte in cui dai o prendi, è la parte rosa femminile, la parte in cui ricevi è la parte invece maschile. Tenere un diario. Il diario servirà anche poi per il chakra della gola, scopriremo più perché. Figurati, se come a scuola. Sì, in cui però racconti come ti senti, quindi come ti senti, quello che provi, quindi legato molto al sentire di cuore. E per quanto riguarda la parte invece di psicoterapia, sicuramente è analizzare quello che noi pensiamo siano le relazioni giuste di ogni tipo, perché il chakra del cuore parla di amore in tutti i sensi, quindi dalle amicizie al partner, ai genitori, alla famiglia, ai figli, eccetera. Liberare dal dolore che uno si può portare dentro, anche qui per dei traumi infantili. Perdonare quando è il caso di perdonare, perché uno dei gesti più belli che ci possiamo fare per noi stessi è perdonare le persone che ci hanno fatto un torto, e lavorare tanto su il bambino interiore, che quindi è la parte maschile, quello che noi vogliamo, vogliamoci bene. Più o meno sono questi i modi per aiutare il chakra del cuore a liberarsi, quindi a buttare fuori questo macigno che abbiamo sul cuore. Qualche tisana che aiuta il cuore, qualche strana pianta? Tisana... Non ce n'è, la tisana è per dormire, per digerire, ma il cuore... Oddio, almeno che tu non sia cardiopatico, puoi prendere il biancospino. Però diciamo qualche fiore per eccellenza sicuramente è un fiore australiano, che è il bluebell, che è l'apertura verso l'amore. Insomma, in Australia ci fanno i fiori buoni. Tra l'altro mi hai fatto sovvenire un ricordo, e in particolare alle superiori la mia compagna di banco dedicava molte ore a fare il suo diario, tutto colorato, tutto scritto, sembrava quasi un'opera d'arte. Io la prendevo in giro, lei passava sempre a giugno e a me mi rimandavano a settembre regolare. Pensate, forse dipendeva anche da questo. Elisa, grazie di queste nuove informazioni, di queste indicazioni. Cercheremo, sono tutte baggianate, è ovvio, però cercheremo di in qualche modo vedere se riescono a calare, a essere usate nella nostra vita. Ancora non li vedo i chakra, però li sento. In effetti dicono che per esempio l'intestino abbia cellule cerebrali e neuronali pari a quelle del cervello di un gatto, quindi in qualche modo lui sente, lui parla, lui agisce. Grazie Elisa. Grazie a te Giorgio, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World per averci seguito in questo nuovo viaggio all'interno dei chakra. Olè.